Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon che, chi ci segue lo sa, preferisce indagare nei luoghi rodariani italiani. Siamo andati a Omegna, terra natia del grande narratore, siamo passati per altri luoghi dove si allestiscono mostre e quant'altro. Oggi invece andiamo nel centro Italia, ad Orvieto, dove risiede il più antico dei centri rodariani in Italia. E per fare il punto sull'attività del centro rodari di Orvieto abbiamo parlato con due dirigenti. La prima è Ilaria Capanna, che è un membro dello stesso comitato centro studi Orvieto, e poi con Alda Coppola, che oltre ad essere assessora del comune di Orvieto è anche presente nel consiglio di amministrazione del centro medesimo. E dopo aver fatto il punto sul centro studi rodariani di Orvieto, andiamo invece a parlare di una graphic novel edita da Coccolino. L'artista è Giulia Spagnolo, conosciuta in arte come Zuzu, che ci parla del suo nuovo fumetto Giorni Felici, dove la protagonista è Claudia, un camaleontico personaggio che si muove tra passato e presente. Quindi stacchetto musicale e poi andiamo a curiosare nel centro rodariano di Orvieto. Ilaria Capanna, il centro studi rodari di Orvieto ha riaperto dopo la pandemia ed ha in programma molte attività, ma prima di parlare della funzione di questo centro e quindi anche della volontà della famiglia e dell'amministrazione comunale, ti chiedo che cosa troviamo, quale materiale è presente in questo museo. Nel centro studi Orvieto, che è riaperto ufficialmente a novembre scorso del 2021, si trovano gran parte delle edizioni italiane, tra le primissime uscite di Gianni Rodari, la gran tante edizioni estere e quasi tutti i suoi articoli da giornalista, da che ha iniziato insomma, nel 1945, a quasi tutti i saggi di critica che sono stati scritti negli anni su lui, anche diverse tesi che negli anni sono state fatte, e si aggiungono nel tempo sempre più materiali che possono essere in qualche modo donati da maestre o da persone a lui vicine e che si aggiungono a questo importante processo di avere una totale possibilità di studiare a 360 gradi Gianni Rodari. È il 1987 l'anno in cui nasce il centro studi, certo. Quindi a pochi anni dalla morte di Rodari. Quindi ci fu una volontà di cogliere già da allora la sua testimonianza di anche grande letterato e di uomo impegnato. Quindi fu una volontà e che venne raccolta dal comune di Orvieto. Ma per quale ragione? A Rodari era piaciuta la città di Orvieto e ha partecipato a delle iniziative ancora prima della sua morte lì, quindi insomma era stato affascinato da questa città. Quando è morto ci sono stati altri convegni nella città di Orvieto e si è pensato con la famiglia e con studiosi di Rodari in quel momento, tra cui anche c'era Pino Povero già all'epoca, di poter aprire un centro studi proprio a Orvieto, poi una città al centro dell'Italia e facilmente raggiungibile sia da Roma che da altre città. Quindi c'è una richiesta di materiale molto importante, anche testi estere, tutto il rodare tradotto all'estero. E quindi qual è lo scopo di questo centro studi? Cioè come lavora poi nella città? Perché sappiamo che un qualsiasi centro studi, oltre a fare ricerca, ha anche bisogno di restituire poi il lavoro che viene fatto intorno alla persona che è Rodari in questo caso. Certo, il centro studi ovviamente in questi ultimi anni abbiamo avuto, come sappiamo tutti, grandi difficoltà generali dovute alla pandemia, quindi si è faticato a stabilire una possibilità di incontro di qualsiasi genere, però ecco sicuramente l'intento e la volontà certa è quella di riaprirsi non solo alla città di Orvieto, ma anche a tutte le università, alle scuole, studiosi, anche esseri, insomma, avere conoscenza della figura di Gianni Rodari. Ci sono già dei professori che in qualche modo hanno potuto andare al centro studio Orvieti per studiare le traduzioni estere di Rodari, che ovviamente non erano facilmente ritrovabili prima di qualche mese fa. Sì, tu, Ilaria Capanna, curi anche il materiale della famiglia, oltre anche a quello del centro studio, almeno in parte. Quindi qual è questo il rapporto che c'è tra la famiglia Rodari e il centro studio in questo momento? Allora, la famiglia Rodari, ovviamente, come già dicevo prima, ha voluto fortemente che il centro studi riaprisse e che avesse tutte le condizioni di funzione, appunto, per poter permettere a qualsiasi studioso di andare lì e studiare, di recuperare materiale difficile da recuperare. E ripeto, è sempre in aggiornamento il materiale di inserimento. Il mio rapporto col centro studi al momento è come membro del comitato scientifico scelto dal CDA, e il rapporto invece diretto con la famiglia nasce nel 2010-2011, quando ho dato la prima tesi su Gianni Rodari e ho potuto conoscere la famiglia abitandone poi molto vicino. Io venivo dalla scuola Carlo Collodi, dove insomma Rodari ha scritto insieme alla maestra Bugiaretti, insomma ci sono stati degli appuntamenti per la torta in cielo che sono nati attraverso gli alunni della maestra Bugiaretti per creare quella favola che già Rodari aveva in testa, e quindi questo mio desiderio di conoscenza che si è sempre più approfondito, anche perché la famiglia stessa ha avuto desiderio, e io per prima, di approfondire poi con la mia tesi magistrale e secondo lavoro su Rodari e sulle favole moderne, e quindi sono rimasta in collaborazione con la famiglia e mi occupo ad oggi dell'inserimento delle tutte le edizioni italiane ed estere che arrivano e che posso in qualche modo valutare insieme alla famiglia per poter ridare poi al centro studi, così per quanto riguarda anche i saggi, la critica e altri documenti pubblicati. Ilaria Capanna, veniamo a Rodari. Gianni Rodari, come tu lo hai studiato, che è naturalmente grande intellettuale, grande scrittore, grande uomo che è impegnato politicamente sempre poi nel Partito Comunista e sempre, si è sempre dedicato poi ai ragazzi, alla formazione dei ragazzi, alla costruzione proprio di una generazione che fosse democratica, votata alla pace, eccetera. Tu che sei di una generazione diciamo più giovane, quindi non hai avuto modo di conoscerlo magari in vita, che idea ti sei fatta di quest'uomo e che cosa ci ha lasciato e quanto è ancora attuale? Gianni Rodari è sicuramente uno dei più importanti letterati del Novecento e quello che mi ha lasciato fin da bambina, perché ho avuto la fortuna di conoscerlo ancora, anche se di una generazione abbastanza giovane, scuola, è stato l'impegno civile che passava attraverso le sue filastrocche, e questa cosa i bambini colgono fortunatamente tanto, anche molte cose belle per fortuna. L'impegno civile è la prima cosa che Rodari mi ha trasmesso bambina. L'ho rincontrato da adulta, insomma negli anni in cui ridavo la tesi, proprio con il desiderio di approfondire questa tematica, perché è stato un intellettuale italiano, come giustamente hai detto, ma è andato oltre a quello che poteva essere la ricerca degli intellettuali italiani nel secondo Novecento. Ha avuto appunto un impegno con l'infanzia, facendo continua ricerca sull'infanzia attraverso le maestre, il movimento di cooperazione educativa a cui era legato, e attraverso le sue favole, le sue filastrocche, attraverso la sua letteratura, ha saputo ridare questo impegno civile anche con molta ironia e con un guizzo e con una ricerca sicuramente fuori dal comune. È colui che ha trasformato la favola popolare, la favola d'autore, nella favola moderna. Nel secondo dopoguerra cambia favola, non ci sono più principi o principesse, ma ci sono oggetti del quotidiano che diventano protagonisti assoluti delle favole, che diventano anche brevi racconti. Favole al telefono è un esempio di questi. C'era una volta un bianco castello fatato, un grande mago l'aveva stregato per noi. Di eri la mia regina ed io il tuo re. Mai, mai, mai ti lascio. Tu sarai sempre regina ed io il tuo re. Quattro pareti più grigie. E dopo aver sentito Ilaria Capanna, membro del Comitato Centro Studi di Orvieto, andiamo con la voce di Alda Coppola, assessora e anche del CDA del centro stesso. Alda Coppola, la città di Orvieto ha rilanciato con un nuovo progetto e anche un trasferimento di sede il centro studi Gianni Rodari, che pure era nato nel 1987. Ci racconta brevemente la storia del centro? Il centro nasce già negli anni 80 e era stato il primo centro in Italia di Gianni Rodari, quindi voluto dall'allora amministrazione comunale e che nel tempo ha portato avanti anche dei progetti molto, molto belli. C'era anche un premio proprio che faceva riferimento a Gianni Rodari e che era rivolto alle scuole. Poi negli anni a seguire ha avuto dei momenti altalenanti e poi ha perso un po' del suo smalto. Questo invece si è di nuovo entrato nell'interesse dell'ultima amministrazione comunale, proprio con il sindaco Roberta Dardani, che più di un anno fa mi chiamò per entrare a far parte proprio del CDA di questo centro. Io accettai con molto piacere, anche perché sono un'insegnante di scuola superiore, ma Rodari fa parte proprio del mondo della scuola, e quindi con grande piacere sono entrata a far parte di questo CDA, che nel tempo, proprio in questo ultimo periodo, c'è stato questo bel ritorno proprio del centro, e con il trasferimento nella sede della Biblioteca Comunale di Orvieto, che è una sede molto bella, con una parte proprio che è rivolta solo ed esclusivamente ai libri di Gianni Rodari, e quindi con la possibilità anche di avere scuole e di poter fare anche delle iniziative proprio all'interno del centro. Avete svolto ultimamente un lavoro di ristrutturazione del centro, ecco, in che cosa è consistito e anche chi può utilizzarlo oltre le scuole, cioè è fruibile per ricercatori e insegnanti o anche per un pubblico più generico? Allora, quello che è stato fatto all'inizio è stato proprio dare di nuovo una visibilità adeguata a questo centro, proprio per il tipo anche di materiale che c'è all'interno di questo centro. Infatti ci sono addirittura 1500 documenti di varie tipologie che proprio di raccolte inedite delle opere di Gianni Rodari e anche tutti i lavori di critica e di ricerca che riguardano proprio la sua produzione. Quindi è stato proprio questa la volontà, c'è stata tutta una serie proprio di incontri anche con la figlia Paola per ricostituire nella maniera migliore questo lavoro che doveva essere portato avanti. Per questo ci sono per esempio due iniziative che sono rivolte ai ragazzi di tutte le fasce di età nelle scuole, proprio per fare dei lavori che poi portano a concorsi finali, eccetera. Ma è stato soprattutto rivista tutto il discorso, diciamo, di una pubblicità più esterna ad Orvieto, naturalmente. Quello che lei mi diceva, chi può usufruire, per chi è fruibile questo centro? Per tutti, quindi per le scuole, per chi vuole fare una tesi appunto e ha bisogno di consultare libri, per le persone che vogliono venire lì e vedere dei testi, anche perché ci sono in tantissime lingue. Noi infatti abbiamo delle richieste da parte di persone, di ragazzi, di giovani che facevano delle tesi anche dall'estero, perché sapevano che in questo centro ci sono proprio dei testi unici che stanno soltanto qui e che proprio possono essere consultati. Se mi permette, sì. Citare anche una lettera che ci è stata regalata dalla figlia di una maestra che nel 1969 con una quarta elementare di allora avevano mandato a Gianni Rodari per avere una risposta magari da lui, che lui gli ha dato assolutamente, ha risposto a tutti questi bambini e addirittura ha fatto una canzone proprio solo ed esclusivamente per loro che si chiamava Il fantasma raffreddato, e noi abbiamo l'originale di questa lettera che gli è stata mandata e che appunto gli eredi di questa maestra ci hanno gentilmente donato. C'è una parte dedicata alla collaborazione o al lavoro che si è svolto intorno a Gianni Rodari rispetto alla musica. Avete anche nel vostro gruppo il musicologo Mario Piatti, che è noto a livello nazionale. Ci può dire qualcosa intorno al materiale che avete che ha a che fare con l'aspetto musicale, le opere di Gianni Rodari e quindi di come sono stati poi utilizzati in questo senso? Beh, noi abbiamo anche avuto la presenza, tra l'altro, del figlio dei signori del quartetto Cetra, che è venuto anche qui da noi per parlare proprio di tutte le storie appunto scritte da Rodari, che poi sono state messe in musica dai suoi genitori e dal quartetto Cetra. Filastrocca impertinente, chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non si avvicina. Chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto, e chi non parte in verità in nessun posto arriverà. Inoltre abbiamo anche una versione originale del disco di Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo, e non soltanto, sempre lei, facendo riferimento a quanto lei mi dice a proposito delle canzoni e quindi dell'aspetto musicale di Rodari, un professore proprio di Orvieto ci ha regalato in lingua russa Le avventure di Cipollino, che lui ha trovato praticamente per caso girando in uno dei mercatini che magari qualche volta, e quindi ce ha fatto dono, per cui c'è anche questo aspetto, questa parte che va a sottolineare e soprattutto a rafforzare quelli che sono gli scopi di questo centro, che sono quelli divulgativi, sono quelli didattici, sono quelli scientifici, e quindi appunto c'è un ampio ventaglio di tutte queste possibilità che possono essere utilizzate, di cui si può usufruire in questo centro. Если взять один кирпич, мало толку в нем, потому что из него не построишь дом. Если пару кирпичей рядом положить, будет только две стены, неудобно жить. Взять бы много кирпичей, штук примерно пять. Вот бы вышел славный дом, только где их взять, а? Ну, как дела, старина? А я тебе подарочек принес. Вот, возьми. О! Sono in collegamento telefonico con Giulia Spagnuolo, in arte Zuzu. Ciao Zuzu, benvenuta ai microfoni di Radio Città Fujiko. Ciao, grazie. Allora Zuzu, siamo qua per parlare del tuo fumetto uscito per la Coconino e si intitola Giorni Felici. Io partirei un po' dalla protagonista principale, che è Claudia, che è una protagonista molto particolare perché è camaleontica, diciamo, cambia anche proprio fisicamente forma e si muove tra passato e presente. Ce la puoi raccontare un po' questa protagonista? Certo, Claudia è un personaggio particolare perché ha questa dote di trasformarsi, in qualunque momento prova un'emozione particolarmente intensa, il suo corpo si modifica e le spuntano le ali, le zanne, questi prolungamenti di sé che in un certo senso non le permettono di nascondere quello che lei trova dentro. Questa è una metafora visiva per cui non ha delle vere e proprie ripercussioni. Gli altri sono quasi più spaventati in realtà dalla sua emotività che dalla sua fisicità, e questo è uno dei poteri che ha il fumetto, quello appunto di poter giocare anche con ciò che non è reale e renderlo improvvisamente reale. E Claudia vuole fare l'attrice, è il suo sogno, e prepara un monologo che monologo di Beckett, Giorni felici, da cui è preso anche il nome, insomma, del fumetto. A proposito di Beckett, che hai appena citato, ci sono proprio delle influenze e delle collaborazioni anche musicali, ad esempio con Giorgio Poi, e appunto anche influenze dal mondo del teatro con il monologo Giorni felici di Beckett. Ci vuoi raccontare un po' queste influenze, queste collaborazioni che ci sono state? Certo, è stata come una catena, perché a nascere innanzitutto è stato Giorni felici di Beckett, che è stata una lettura per me fondamentale, perché quando l'ho letta è stato come se un personaggio improvvisamente mi suggerisse quello che stava provando Claudia, come se una donna più matura di Claudia sapesse quello che stava provando, quindi è stato epifanico averlo davanti e anche farlo recitare a Claudia, quindi dargli nuova vita. Invece Giorni felici di Giorgio Poi è nata dopo. Io ho conosciuto Giorgio Poi per una cassettina di un'autoproduzione che avevo illustrato, e lui voleva acquistare un mio originale, e io gli ho proposto di leggere il mio nuovo fumetto. Lui l'ha letto e ci ha fatto una canzone bellissima che si chiama appunto sempre Giorni felici. E parlando invece un po' del fumetto in generale, ti volevo chiedere da dove ti è arrivata l'ispirazione per scrivere questa nuova storia, se viene un po' da te, se quindi in parte autobiografica o se racconti semplicemente una storia. Io non riesco a non partire comunque dalla mia esperienza di vita, poiché è l'unica cosa che ho, quindi sicuramente tutto quello che nasce dalla mia immaginazione è anche una rielaborazione e un aver digerito e masticato esperienze reali, per cui è diciamo una realtà rielaborata più che una autobiografia, è come se la mia storia fosse mia nel momento in cui la trasformo in una storia per altri, e quindi non è più la mia storia ma è una favola, quindi non la riesco a considerare un'autobiografia. Considero realtà e realismo due cose diverse, che possono però coesistere e possono anche non coesistere, insomma. Certo, il fumetto che io tra l'altro ho già letto mi è piaciuto moltissimo, quindi complimenti veramente, mi ha colpito, cioè mi ha dato diciamo quest'idea che tu avessi un po' un'esigenza di raccontare, un po' per la lunghezza anche banalmente, ma anche per l'importanza ai lunghi dialoghi che insomma che hai dato, è stata un'idea mia o era effettivamente così? Sì, certo, soprattutto quando si lavora a qualcosa che ti prenderà così tanto tempo, se non hai una ragione molto forte che ti spinge, insomma una motivazione importante e in urgenza, ecco, è difficile dedicarci così tanta fatica, perché poi insomma i pastelli sono fisicamente impegnativi da usare su tutte quelle pagine. La sensazione, l'emozione da cui sono partita nella scrittura di questo libro è stata la rabbia. Infatti all'inizio questo era un fumetto sulla vendetta, sulla rabbia, poi è cambiato perché i libri da soli ti portano altrove, i personaggi ti suggeriscono nuove strade, e infatti poi quando finisce la storia ti mancano terribilmente. Cambiare macchina è molto facile, cambiare donna un po' più difficile, cambiare vita è quasi impossibile. Cambiare tutte le abitudini, eliminare le meno utili e cambiare direzione. Hey! Cambiare marca di sigarette o cercare perfino di smettere non è poi così difficile. E tenere a freno le passioni, non farci prendere dalle emozioni e non indurci in tentazioni. Cambiare logica è molto facile, cambiare idea è un po' più difficile, cambiare fede è quasi impossibile. Cambiare tutte le ragioni e